Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scendere al suo livello, Cruciani, non voglio scendere al suo livello, se lo lasci dire, è una vergogna quello che fa. Siete la spazzatura radiofonica italiana, siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vasca. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, il prossimo candidato sindaco a Milano, per le persone che sono interessate a questa notizia, cioè sapere chi è il prossimo candidato del centrodestra a Milano. So che moltissime persone che ci ascoltano non gliene frega assolutamente nulla perché non sono a Milano, però si voterà a Milano e dunque è importante sapere chi è il prossimo candidato del centrodestra e anche del centrosinistra, perché potrebbe essere Sala. Insomma, quello che è candidato ad essere il candidato, il papabile adesso, è Sallusti, il tuo amico Sallusti, Parenzo, lo sai, non abbiamo parlato molto anche bene. Ieri sì, lo so. Ha detto sì, stiamo trattando, alla fine insomma lo farà, molto probabilmente, secondo me. Potresti andare tu a dirigere il giornale a questo punto. No, non credo. Non credo. Io ti candiderei mantenendo la no, radio. No, andrà il signor Mulè, andrà qualcun altro molto potresti più ferrato di me. Nel caso vinca ma no, Sala, ma io non sono adatto a fare quella roba no, lì. No, ma tu puoi andare, io ti candido a dirigere il giornale. Ma nel non caso ci voglio andare Sala, io a dirigere il giornale, scusami. Poi nel caso vinca Sala, i comunisti di merda conquistano Milano, puoi mettere. Ma no, ma Sala, tu è tutto tranne che comunista. No, poi ho fatto un titolo alla riga, ma figurati. Il giornale. Allora, io dico solo una cosa, poi mi devi imitare Sallusti, io dico solo una cosa. Sallusti esordisce in questo modo. Aspetta, perché ma è interessante guarda, come cosa. Sì. Si parla dell'Islam naturalmente, perché ancora non è ufficiale guarda, la cosa. Aspetta, guarda, aspetta. La Convenzione aveva detto con grande lucidità e senza nessuna traccia di razzismo, con un'analisi molto lucida, che la nostra è una civiltà superiore. Cioè è una società, il mondo islamico rispetto a noi è fermo al Medioevo. Il mondo islamico è fermo al Medioevo. Ma guarda, non vogliamo insultare nessuno, però se uno si guarda intorno, quei paesi di merda hanno soltanto sabbia e cammelli del cazzo. Ma voglio dire, ma scusi Sallusti, ma lei sarà candidato a Milano come sindaco, le voglio stiamo dire. Stiamo raccontando dei fatti. Ma sarà candidato, come farà con gli islamici di Milano? Ma parcheggeranno il loro cammello non più in Viale Jenner, ma lo porteranno nei comuni governati dai comunisti di merda. Ma no, scusi Sallusti, ma non hanno i cammelli, visto, guardi, ma non hanno i cammelli. Perché questa tecnica qui che la usate voi comunisti li conosco. Guardi, io ho visto ultimamente da quando governa questo Pisapia, ho visto un sacco di cammelli parcheggiati ma davanti al Duomo. Ma non ci sono cammelli a Milano. È pieno di cammelli parcheggiati davanti al Duomo. Hanno portato la loro sabbia di merda di questi deserti del cazzo e allora hanno invaso completamente la città. Ma non inizia bene la campagna elettorale. Ma mi pare di aver detto delle cose di buon senso, normali, moderate, cioè non mi pare di, no? Vabbè, questa era Sallusti alla prima uscita dopo praticamente la candidatura certa a sindaco di Milano per il centrodestra. Non mi pare, ha parlato di cammelli islamici, insomma si parte forte. Se vincere Sala sparirà anche. Vabbè, ma adesso non deve parlare continuamente, no, Sallusti. Sparirà il passante ferroviario, viaggeremo tutti con i cammelli e dromedari. Non è vero, non è quello. Sì, hanno già abolito le grandi opere, fanno solo dei cammelli di merda peraltro. Allora, grande scontro tra Mario Giordano Mario Giordano, che è il direttore del TG4, ma che è stato anche direttore del giornale a sua volta. No, è editorialista di Libero, soprattutto. Editorialista di Libero, e Massimo Cacciari. Di che si parla, naturalmente? Perché poi, alla fine, è una settimana che si parla, perché domani è sabato, e il titolo fu una settimana fa, sabato scorso, del titolo di Libero. Ora, se non hanno preso manco una copia, ci sarebbe da incazzarsi. Bisognerebbe vedere le copie di Libero in questa settimana. Se non ne hanno presa nemmeno una, ci sarebbe veramente da incazzarsi. Tutto sto casino, manco una copia. Non credo, non credo. Comunque, si parla ancora del titolo di Libero: Bastardi Islamici. Mi spaventa molto di più il fatto che da buona parte dei quotidiani italiani il giorno dopo era dai titoli era sparita la parola islamica, come se gli attentati fossero così degli eventi piovuti giù dal cielo. Invece quelli sono attentati di matrice islamica, e questo va detto, e questo bisogna dirlo, piaccia o non piaccia. È stato Cacciari in diffusione di che Islam? Di che Islam? Ma ho capito, ma di cosa parli? Professore, cosa lei ha idea di che cos'è un titolo di giornale? Sarebbe come dire che l'Occidente, professore, sarebbe come dire che Hitler è l'Occidente. Sarebbe come gli americani avessero gli americani sono gli americani, quando uno parla di bombardamenti americani ci saranno 200.000 l'Europa bastarda. Ma cosa dici? Ecco, aspettavamo, professore, è arrivato, era giusto, stavamo aspettando, professore. Era strano che non si era ancora agitato, questa sera stavamo aspettando. Beh, lo sbrocco di Cacciari a un certo punto l'ho visto io. Ma cosa dici? Certo, cosa basta. Dici? Ha ragione Giordano. Io ammiro il professor Cacciari, eccetera. Ha ragione il signor Mario Giordano. No, io dico. Assolutamente, al 100%. Perché ancora una volta devo dire sì contro tutte le cose. Quello è un titolo di un giornale. Cioè, Giordano voleva fargli capire due cose. No, ma aspetta, due cose molto. Mi fai Cacciari, c'erano quelle ragazze con il ma chi se ne frega? Quello è un altro discorso. Io ho Ma quello. Vabbè, ma Davide, ma quello è un altro discorso. Qui si sta parlando ancora una volta del fatto che si sono sentite offese quelle ragazze. Ma chi se le fotte? Se si sentono offesi sono problemi loro. Quello era un titolo, ancora una volta lo dico con forza, sette giorni dopo, riferito a quelli che ammazzano. E dunque non rompete i coglioni con queste cose qui. A me non me ne frega niente di Libero, non prendo soldi da Belpietro, non prendo soldi dall'editore di Libero. Era fatto apposta in modo equivoco. Ma non lo so, può darsi, ma il problema è che è un titolo di un giornale. I titoli di giornali sono opinione. Allora, ragazzi, ma è veramente incredibile. Ma non sono ma fanno opinione. Comunque, tutto era partito dal fatto che Cacciari aveva detto, perché non abbiamo fatto sentire all'inizio. Aveva detto: uno che fa quel titolo è irrimediabile, irrimediabile. Cioè non si può curare in pratica, è irrimediabile, è fuori dal mondo, è, non so come dire, irrimediabile questo suo termine, no? Tutto filosofico, irrimediabile. Si tratta di cose che lasciano senza parola, senza voce, irrimediabili, insomma. Uno che fa quel titolo è un irrimediabile. Ma abbiamo già un ospite collegato che ha lanciato una provocazione incredibile. Voglio avere assolutamente spiegazioni, un po' di tempo che non viene alla Zanzara. Ma sarà sicuramente un comunista. Ma non è comunista per niente, signor Sallusti, no. Ma no, ma tra l'altro campagna elettorale con Nicoletto Comedale, è socia della sua compagna. Però un attimo solo, c'è un signore che è stato intervistato, se non sbaglio, ieri sera in qualche trasmissione. Il signor Zucchi, pare che sia un estremista, un ex estremista di sinistra. No, il signor Zucchi, ti dico io chi è stato il collaboratore di quel Smith, ti ricordi Smith? Ah, come no, sì, quello che voleva togliere i crocefissi dappertutto. Esatto, signor Smith, questo signor Zucchi. E questo qui era un collaboratore di Zucchi che ha la moglie anche lui convertita all'Islam. Pensate, i convertiti all'Islam, divento pazzo per quelli che si convertono all'Islam. Ed è un ex estremista di sinistra. Esatto, quello che stavo dicendo, ex estremista di sinistra, collaboratore di quello che è morto, quello dei Smith. Sì, di Smith. Senti che cosa dice sulla musica, su quelli che ascoltano la musica. Io ho parlato con marocchini, tunisini che la musica la vogliono. Peggio per loro, perché chi ascolta la musica il giorno del giudizio Dio gli verserà piombo fuso nelle orecchie. Se a loro va bene così. Cioè, peggio per quelli che ascoltano musica, perché Allah gli verserà piombo fuso nelle orecchie. Ma per carità, islamici moderati, islamici moderatissimi. Paola Ferrari è con noi, buonasera, ciao Paola. Buonasera a tutti. Come stai a Londra? Molto sei bene, grazie, benissimo. Senti, allora io voglio un po' dire ai nostri ascoltatori quello che hai scritto. Provocazione, se chiedessimo agli ultras e alle curve di collaborare con le forze dell'ordine per stanare i terroristi e salvare il calcio, ti hanno ricoperta di insulti, non solo insulti, anche di prese in giro. Non solo. Prese in giro, eccetera, eccetera. Che volevi dire con questa cosa? Ma innanzitutto insulti, ma non solo, gli insulti, diciamo, alle provocazioni, a una provocazione sono sempre accettate. Ma mi sembra di aver detto una cosa che tu hai scritto. Aspetta, avvicinati meglio, che non si sente niente. Scusa Paola, avvicinati meglio col telefono. Mi senti? Sì, sì, ti sento, dimmi. Sì, ti sento benissimo. Allora, il discorso è semplice. Forse non ci siamo resi conto totalmente che dalla scorsa settimana, da venerdì scorso, il mondo è cambiato un'altra volta. Vabbè, questo lo sappiamo. Poi? In modo, ma forse chi risponde non tantissimo, perché si lega dei vecchi stereotipi che secondo me non devono più esistere. Allora, noi siamo di fronte, mi occupo di stadi, perché quello giornalisticamente è il mio lavoro, di calcio e di stadi. Lo stadio è uno dei punti d'attacco. Sì, no, ma come possono, come possono collaborare, allora, gli ultras a stanare i terroristi? Scusa, certo, per curiosità. Come possono collaborare? Quante centinaia, migliaia di poliziotti mettono in campo il Ministero dell'Interno attorno agli stadi per proteggere? Aspetta, adesso abbiamo il traffico, poi io spacco qualcosa oggi, come sempre, spacco qualcosa, cerchiamo di ripristinare questo collegamento, traffico. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale, eliminatele. La Zanzara. Paola Ferrari, che conduce il 90° minuto su Rai 2 e ha condotto per tanti anni la Domenica Sportiva, come sapete, anche, anzi, devo dire la verità che non, ancora non gli è andata giù il fatto che non la conduce più. No, però sì, un altro discorso. Però scusami Paola, allora tu dici possono collaborare con le forze dell'ordine, in che modo, per stanare i terroristi? È questo che non mi risulta. Stavo spiegando brevemente, abbiamo moltissime forze dell'ordine, poliziotti impiegati negli stadi per prevenire disordini tra gli ultras. Dato che le nostre risorse economiche non sono infinite, se quei poliziotti, invece di andare a occuparsi degli ultras, passero tutti di sicurezza, non dimentichiamo che è stato uno steward che ha fermato la strage che poteva esserci al Saint Denis, se quei poliziotti sono impiegati a stare dietro agli ultras, capisci che abbiamo molte meno forze. Cioè, tu dici che dovrebbero fare? Sì, ultras, che dovrebbero fare? Perché tutto sparigliato, i valori di prima sono completamente cambiati. Vabbè, ma che dovrebbero fare sti ultras? Gli ultras dovrebbero fare accordo con la polizia, con le forze dell'ordine, un accordo di responsabilità. Sì. E poi dicono: noi per 3 mesi, 6 mesi, siamo l'anno del giubileo a Roma e tutto questo, non daremo un tipo di impegno alle forze dell'ordine, ci comporteremo da tifosi veri, non quello che sono davanti, che andremo negli stadi. Cioè, scusa, in modo che le forze dell'ordine possano in altro modo. Allora, però scusami Paola, abbi pazienza. Tutte le immagini, adesso abbiamo tanto criticato la trattativa con le forze, la trattativa quando ci fu Jenny La Carogna, eccetera, eccetera. Ma te le immagini te, i capi degli ultras che trattano? No, io voglio prendere una trattativa nascosta, una trattativa. E come no? Si parla di trattative. O ci rendiamo conto che tutto è cambiato. Ma questo d'accordo. Ieri per gli ultras, oggi per i terroristi, bisogna cambiare. Bisogna essere capaci tutti davanti. Ma no, ma d'accordo, ma gli atti di responsabilità. Ma agli ultras non gliene può fregare di meno di quello che è successo. Quelli che vogliono fare casino, non gliene può fregare di meno di quello che è successo a Parigi. Questo chiedilo a loro. Ma come dovrebbe avvenire questo? Perché io penso che non possiamo, andare allo stadio domani, quando ricomincia il campionato, con le stesse idee, le stesse posizioni. E dunque che dovrebbe succedere? Spiegami. Che dovrebbe succedere? Cioè che gli ultras smettono di fare gli ultras per un tot di mesi? Cioè smettono di fare casino? Smettono dovrebbe di creare problemi alla polizia davanti a un nemico comune, fronte comune. Cioè fronte comune, ultras, fronte comune. Gli interni può fare, ai poliziotti per presidiare meglio le persone che vanno e nello stadio. Perché però tu hai scritto anche un'altra cosa, hai scritto anche un'altra cosa, presidiare solo la curva, Sì, no, ma ho capito, però scusami Paolo, tu hai scritto anche un'altra cosa, non è che hai scritto proprio così, hai scritto collaborare con le forze dell'ordine per stanare i terroristi e salvare il calcio, cioè secondo te possono collaborare anche dal punto di vista operativo magari, no? O no? Dal punto di vista operativo penso che questo lo possano fare molto bene le forze dell'ordine. No, per stanare i terroristi che vuol dire? Problemi sarebbe già una grandissima collaborazione. E stanare i terroristi che vuol dire allora? Beh, se tu dai più forze dell'ordine la possibilità di stanare i terroristi, nel loro piccolo, diciamo, nel loro grande, gli ultras fanno un passo in avanti che cambia. Cioè, magari possono sapere di come sono visti dagli altri tifosi. Sarebbe un cambiamento molto importante. Parenzo, tu che dici, Parenzo? No, io secondo me ha perfettamente ragione la Ferrari, cioè non è una provocazione, è vero. Tutto ragazzi, è cambiato. Ma non scherziamo, dai, no, su. Ma non lei poi conosce profondamente il mondo del calcio, ma io al di là di questo voglio dare un suggerimento all'amica Ferrari, visto che è a Londra, un favore personale, se può andare a mangiare il sushi da Zuma. No, ma chi se ne frega, ma io fate pubblicità ai locali, no, ma siete pazzi, Zuma, cioè andate a mangiare il sushi da Zuma, perché dovrebbe andare a mangiare il sushi da Zuma, scusa? Se è a Londra, sì, perché bisogna combattere il terrorismo anche andando nei locali. Bisogna non avere paura. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma d'accordo, ma la gente ci va lo stesso nei locali, non ti preoccupare. Nel quartiere di Belgravia, ad esempio, c'è una, non dirò il nome, allora, c'è un altro sushi molto buono nella zona di Belgravia. No, voi siete completamente pazzi. Cioè, anzi, Parenzo è pazzo. Però ti dico anche. No, però torniamo sugli ultras. D'accordo. Scusami Paola, però abbi pazienza. Io non riesco a capire. Come puoi immaginare che gli ultras a un certo punto depongano le armi e lasciano gli stadi liberi dalla polizia e così posso la polizia può... Posso assolutamente immaginarlo, c'è chi ha deposto le armi in altre occasioni, non in Italia, in modo molto più clamoroso, con tregue di molti mesi, tu lo sai. E chi sarebbero questi qua? Il discorso, sto parlando degli stadi, io mi metto nel tifoso vero che domani vuole andare a vedere la partita della Juventus con il Milan o della Roma, che ha paura, prima aveva paura degli ultras, vabbè, aveva paura e completamente cambiato. E allora? O calmo tutti, e quindi anche loro, o, no, o lo stadio può essere davvero, diventare davvero un luogo di guerra. Vabbè, ma dai, ma insomma, ma non possono, ma a parte che tu hai scritto anche stanare, dunque secondo te potrebbero avere qualche ruolo, che ne so, per liberare l'Italia? I operativi sono della polizia. Detto ciò, gli ultras sicuramente, più che gli ultras direi, chi frequenta molto le curve conosce bene i punti, diciamo, pericolosi degli stadi. E dunque? Tu dici questo, però, possono evitare i pacchi bomba, le forze dell'ordine, non voglio dare agli ultras, no, però tu dici che gli ultras possono indicare alle forze dell'ordine un islamico che si vuole fare saltare in aria. No, un islamico no, ma se qualcuno può nascondere in qualche anfratto dello stadio qualche cosa, non dimentichiamoci che probabilmente la bomba che ha fatto cadere l'aereo potrebbe essere mai scelta, è stata inserita. No, ma ho capito, vabbè, ma insomma, ragazzi, quindi però qualcuno può arrivare senza niente al cancello di sicurezza e aver nascosto qualcosa. Però prima, ragazzi, questo non lo sappiamo, ma questa è una tua provocazione che tu ma fai. No, la provocazione, il senso era quello. Ma hai detto tu che no, ma quello l'ho capito. Quello l'ho capito, però tu dici anche potrebbero al limite far dare una mano per io indicare. Io ti dirò che se in tutto questo disastro ci fosse disastro mondiale, questa tragedia immane, ci fosse, parlo sempre degli stadi del mio mondo, una presa di responsabilità diversa contro un nemico comune, ci sarebbe una cosa positiva. Ma sì, ma non può esistere, non è che negative. Ma non è che uno si immagina Jenny La Carogna che dice fermi tutti, dobbiamo combattere l'Islam insieme ai poliziotti, dunque vi lasciamo, dai, su. Spettacolarizzare. Ma non è spettacolarizzare, con qualcuno bisogna parlare. È chiaramente un'altra provocazione. Vabbè. Detto ciò, vabbè, Paola, tu hai paura dell'Islam? Sono una persona particolarmente responsabile di atti molto, molto gravi. Vabbè. Io penso un movimento delle curve. Movimento delle curve che dovrebbe fare? Non è che poi sono sempre tutti delinquenti, non ma no, vabbè, però ma dai, ma collaborare per liberare le forze dell'ordine, addirittura per individuare qualche ordigno o qualche cosa, dai. Vabbè, ciao, ho il giornale radio, ciao. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Io lo vedo lì. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Allora, ragazzi, oltre ai soliti numeri che conoscete, non ve li ripeto perché mi rompe le balle ripetere i numeri, c'è anche un numero dove potete mandare i vostri messaggi WhatsApp, soprattutto 393-71-71-701, molto facile, molto semplice, 393-71-71-701. E sono arrivati dei messaggi sulla signora Paola Ferrari e la sua idea assurda, bislacca, almeno io gliel'ho detto in tutte le salse, Parenzo invece un po' la difendeva. No, non è una brutta idea, ormai, cioè, tu attacchi solamente la Lega e Belpietro, cioè non hai altre la Lega e Belpietro, a parte che prima non si sentiva una mazza, che sembrava che fossi in un antro nascosto. Però fammi sentire i messaggi che sono arrivati sulla Ferrari. Caverna. Sì, sì, i messaggi sulla Ferrari. Ha ragione Paola Ferrari, è tutto cambiato, tutto. Quindi Paola, levati dalle balle. Più parla la Ferrari, più mi rendo conto che la gente ha perso la testa. Ma come cazzo fa a lavorare questa qua in Rai da tutti questi anni con un cervello così piccolo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stai sostenendo? Cosa cazzo c'entrano gli ultras, i poliziotti, il San Denis? Ma che cazzo dici? Effettivamente ha detto il San Denis. Il San Denis. Dai su, Davide, come si fa a sostenere una cosa di questo tipo? Che gli ultras dovrebbero essere coinvolti nella guerra all'ISIS, al terrorismo? Dai su, ma sono cose ma che... Ma no, ma faceva... Ma scusami, partiva dal caso della Turchia, no? È evidente. Ma non è vero, ma lo dici tu questo qua? Ma non no, fatto detto tweet. Ma non è dire stupidaggini, non è questo il punto. È arrivato. Ma non dire stupidaggini, turco, non no. C'entra nulla, non c'entra niente. Beh, non c'entra niente. No, nulla, niente, zero. Non gliel'abbiamo neanche zero. Chiesto. Ma questo, non c'entra niente, nulla, nulla. Ma non dici niente del titolo di Libero di oggi, islamici in piazza, cioè domani, a parte che alcuni si sono divisi a Milano. No, ti volevo dire, sì, beh, quella è un'altra storia, a Milano c'è quel gruppo di Piccardo, ma cioè, quelli, diciamo sì, così... Sì. Le grandi sigle sono sì, tutte la Roma. Divisione degli islamici sono tu a quale manifestazione islamica vai? No, io nessuna perché sono ebreo. Beh, ma io appunto, sono soprattutto un cittadino libero che sì. va a questa manifestazione. Beh, certo, per dimostrare dubbio. Che non sì, devono per essere chiudere il cerchio, per chiudere il no, cerchio no ma diciamo. Nel momento in cui questi qui dicono una cosa giusta e mi pare che i due slogan siano fondamentali, no? Sì. No al non è che dicono no ai terroristi. Ancora state con gli slogan e le manifestazioni, tu capito? È tutto finito, ma non servono a una mazza. Ma guarda che è scendere in piazza che un gruppo di musulmani italiani lo dica. Avete chiesto, non dicono nulla. Lo fanno e gli dici non serve a niente. Ma no, ma va bene, per carità. Ma che sei curioso. Ma no, comunque ma va la notizia bene. È un'altra, perché oltre alle migliaia di persone sì, che domani vabbè, poi vedremo, saranno là. Vedremo. Io andrò, e sai sì. chi verrà anche? Chi viene, avanti. Quindi viene. Per la prima volta in vita mia, manifesterò con Fabrizio Cicchitto. Questo è il punto che ti volevo dire. Sì, tu domani Cicchitto. Manifesti con Cicchitto insieme agli islamici, ragazzi, il mondo è tutto finito, eh? Cioè Parenzo, sì. Cicchitto e gli islamici domani a Roma. Sì. Parenzo, sì. Cicchitto e gli islamici. Sì. Chiudiamo qui. Sì. Giù la Claire. Parenzo, sì. Cicchitto e gli islamici. Sì. Basta, beh, non ne poi posso. C'è Calizia, Uchi, tutti un sacco di gente. Vabbè, insomma. Figurati. Lui l'ha promossa, Allora, un altro tema è quello dei convertiti. Dei convertiti. Ieri a Piazza Pulita ho visto delle signore che parlavano anche romanesco più di me. con il velo, con non integrale, ma questo, insomma, è curioso. Un velo, sì. E, a parte che la domanda è sempre la stessa, e la ripeto ora, con grande moderazione. Uno oggi nel 2015, non dico uno che è nato in Pakistan, in Egitto, che poi si trasferisce in Italia e mantiene le sue tradizioni, è islamico e va bene, tutto quello che vogliamo. Ma uno oggi nel 2015, che magari 3, 4, 5 anni fa, o che nasce, nato insomma negli anni 2000 più o meno, o anche negli anni 90, che aderisce all'Islam, cioè i convertiti oggi, io vado ai matti, vado veramente ai matti, perché è come aderire, che ne so, io posso capire chi diventa chi diventa buddista. Ma dici, perché? Vabbè, perché il buddismo si dice che no, uno alla fine, ma che ne sai, ma non sai niente di queste religioni, ma perché, su, che, ma come si fa, ma non punto. È normale, dai, su, ci sono problemi dietro, dai, abbastanza chiaro, su. Come diciamo dice la legge, c'è la libertà di parola, la libertà di espressione, io ho anche il diritto di querelare, quindi io querelerò questo titolo, querelerò il giornale Libero, e invito anche tutti i musulmani e non musulmani che vedono offensivo questo titolo di querelare. Ti ho vista col velo, oggi non ce l'hai più, è una scelta religiosa, personale, ce la vuoi dire? Perché mi ha colpito, appunto. È una scelta sarà svelata, personale, appunto, sì. Cioè, mi sento anche un po' in colpa a dire la verità, perché è come se avessi abbandonato in parte la mia religione nel momento in cui chiede aiuto a me, no? Però comunque è una scelta personale, perché nel momento in cui io parlo di religione devo essere dall'interno coerente con me stessa. Qualcuno chiede addirittura le scuse, cioè le scuse a Belpietro, cioè questi hanno tempo da perdere a querelare Libero, cioè con tutto il casino che c'è nel mondo, i problemi, il terrorismo, gli esami, querelano loro, Libero. Cominciamo col disinnescare le nostre micce, ma in Italia, cioè Belpietro è una miccia, cioè una miccia. No, ci sono tante micce, dai, da non dire da stronzate, su, veramente mi rifiuto tante di micce. Tu puoi criticare quello che vuoi, ma dire che è una miccia e che è un problema, no, no, dai ragazzi, non è l'unico, non è un problema. Però ragazzi, però voglio cambiare un po' argomento, perché l'altro giorno sono andato a una cena in cui c'era il signor Giannino, anche cena, no, poche cose ricca, poche cose bravo, faccio nella vita, sono una di queste ricchia, cena, no, con i tuoi amici camionisti, Donato da Varese, Mauro da Mantova, no, sono andato con quelli, andrò a cena con i due straccioni lì che con, chiamano, no, Donato, straccioni Mauro, che chiamano non ti permetto, i due straccioni, Donato da Mantova e Mauro da Varese, li hai chiamati straccioni, eh? Ma allora, è la cosa più gentile che gli si può dire, due straccioni miserabili, benissimo, avanti, con cui andrò a cena molto probabilmente venerdì prossimo. Venerdì cosa? Prossimo. Sì, venerdì prossimo, sì. Cioè tu passi un, questo è ferma tutto, il Mali, i disastri del mondo, ferma tutto. Sì, ferma le rotative. Dimmi. Napoletano, ti prego, ferma le rotative. Cosa, del 24 hours newspaper. Dimmi. Tu la settimana prossima, sì, io dico, anziché fare magari una gangbang, cosa che fai ogni tanto, o anziché come dire, accompagnarti con 4 o 5 delle tue solite amichette, sì, sì, che anche sì, questo a qualcuno può sembrare strano, ma io non lo giudico. Anziché fare questo, scegli di passare una serata, sì, con due decorticati certificati. No, non solo loro, ci saranno una trentina di persone, come al solito, grande raduno di ascoltatori, di una trentina, una minima parte di ascoltatori, rappresentanza. Dai David, basta però di tossire un mese, che tossisci, hai rotti i coglioni, Andrea. No, capito, ma comunque ci saranno, credo, anche Mauro da Manto, ci saranno, credo, anche Mauro. Uno che è zoppo, basta essere zoppo. E dai, basta, vabbè, ma se uno c'ha la tosse perenne se ne va a fare in culo. Ma tu, dai, ma tu sei un bel saggio, se uno è zoppo gli dice basta essere zoppo. Andrea zoppo, dalla provincia, ma sì, però non può fare, non può fare le gare di atletica. Andrea dalla provincia di Alessandria, se uno c'ha la tosse, se uno c'ha la tosse perenne non fa la zanzara. Andrea dalla provincia di Alessandria, dai. Velocemente, finisco la settimana impegnativa di lavoro e credetemi, non voglio essere irriverente, no, ma devi puoi dire quello che vuoi. Non ne posso più della Santa Sede, del Santo Padre, degli islamici, hai ragione, degli, hai ragione, integralisti, dei, scusatemi con tutto l'affetto, degli omosessuali e del buco del culo. Parliamo un po' di figa, la figa non ne parla più nessuno. No, hai ragione, però Andrea, adesso non è che possiamo parlare sempre delle, sì, stesse, sì, ma hai ragione, ma è uno sfogo, non ne posso ho più. Ho capito, amico mio, ma proponi tu un argomento, qui c'è l'Islam che impera, Parigi, ma del capito, terrorismo, ma è un modo per dire, ragazzi, io arrivo la sera dopo una giornata, mi metto davanti alla televisione, vedo sangue, sento la radio e sento istintivamente mi viene da pensare una cosa bella, la cosa più bella della quale non se ne parla più, è quasi un tabù e basta, ragazzi, è uno sfogo che ho col cuore, con lo stomaco e con tutto. Vabbè, Andrea, cercherò di accontentarti, cercherò di accontentarti, va bene. Grazie. Ciao. Federica, ciao, Pistoia, ciao. Vai, Federica. Federica? Pronto? Dimmi, buonasera, Federica. Crociani, dimmi. Vai, parla io, però, amica mia, dai. Sì, parlo, calma. Allora, ho parlato... Allora, ieri ho chiamato perché volevo dare... Non si sente. Renato da Rimini, vai, Renato. Buonasera, io intervengo per il titolo di libero. Supponiamo che uno mi ha detto mandate Parenzo alla para zanzara, ecco, quello bisognerebbe mandarti, cioè con la voce che hai alla para zanzara, senza offesa, però alla para zanzara. Federica Pistoia, vai. No, Renato. Sì, scusami Renato, vai, dimmi. Allora, una bomba di un aereo americano, francese e inglese cade ad esempio sull'ospedale là in Afghanistan, dove sono morti 40 persone più i feriti, no? Sì. Una strage orrenda. Un giornale arabo scrive bastardi cristiani. Sì. Ecco, no, dico, io mi offenderei. Sì, ma non succede, perché non lo possono scrivere, perché non c'entra assolutamente nulla. Cioè, perché non... quelli ammazzano in nome dell'Islam. Cioè, ammazzano in nome dell'Islam. Ma poi lasciamo perdere i discorsi che ha fatto Giulietto Chiesa su quello che c'è dietro. Però quelli ammazzano in nome dell'Islam, punto e basta. Ho capito, ma supponiamo che scrivessero questo. Non diciamo, scriverebbero male, perché non c'entra nulla in questo caso. Invece in questo caso c'entra, perché ammazzano in nome dell'Islam. Poi Parenzo dice... Ma guardi che il Vaticano, in Italia, l'Italia vende... le armi a loro e dove che abbiamo c'entra il Vaticano, Papa? Scusa. No, voglio dire, abbiamo addirittura il Papa e l'Italia cattolicissima vende le armi che poi usa l'Italia cattolicissima. Insomma, dai, andiamo. Due cose chiudo. Blair ha chiesto scusa. Sì, per la guerra, sì. Sì, esatto, perché si è sbagliato. 700.000 morti, Blair andrebbe al Tribunale dell'Aia come criminale di guerra. Un consiglio a Parenzo, se me lo permette, dimmi. Gli consiglio di leggere un libro scritto da uno storico ebreo. Chi è? Ilan Pappe. E allora che dice la polizia etnica della Palestina. Vabbè, sì. Ciao. Buonasera. Ma Crociani, ma tu sei fuori di testa, se... Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Huawei Mate S. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Crociani, sono l'animalista razzista di Udine. Alla tua morte non ce ne frega un cazzo della morte di Crociani, non ce ne frega un cazzo, un beato cazzo ce ne frega. Allora, ti stavo dicendo, Parenzo, prima di essere interrotto dalle tue discussioni sulla manifestazione di domani, che nei giorni scorsi sono stato a una cena dell'Istituto Bruno Leoni, che è l'unica cosa mondana che mi concedo durante l'anno, mondana per modo di dire, ovviamente una cena con dei signori, con delle persone, eccetera, eccetera. Sì, tutta gente rispettabilissima. Ma sì, c'era anche Chicco Testa e altra gente, E a un certo punto ho scoperto che... Ma ti hanno invitato per servire i tavoli, no? No, mi invitano sempre come, insomma, pseudo-liberista o presunto. Ah, ma non ti hanno detto, benvenuto, dottor Crociani, guardi, i guanti bianchi sono lì, no, e lo champagne guarda, è là. Quello lo farà qualcun altro, qualche amico tuo, io no. No, ma per, no. È una cosa, tra l'altro, rispettabilissima servire i tavoli. Dunque, stai insultando i camerieri. Come al solito stai insultando i camerieri, va bene. Sì, stai insultando i camerieri. Ma che hai fatto, il cameriere, figurati. Allora, no, ti stavo dicendo una una cosa. La pizzeria a Padova. Avanti, sì, sì. Ti stavo dicendo, bisognerebbe chiamare il gestore di questa pizzeria a Padova dove hai fatto il cameriere. Ti darò presto il numero. Bene, certo. Ottimo. Allora, adesso l'hanno chiusa, ma non per quello. Sì, vabbè. No, vabbè. Si chiamava, vabbè, poi lo puoi verificare. Comunque, comunque, a un certo punto la cena c'era tra le possibilità, sì, di finanziare questo istituto, c'era cena con andare a cena con Giannino, ti giuro, andare a cena con Giannino. Ma tu hai dato qualche soldo? No, io zero, zero, zero, zero, zero. Cioè, hai mangiato senza zero, dare zero, zero. Cioè, hai mangiato senza dare. Ma non c'era, non c'era, non era obbligatorio. Allora, ma l'educazione, scusa, sei ma una quale educazione? Fondi. Ma non c'entra niente, ma tu potevi dare dei soldi, che ne so, vincevi un viaggio. Ma tu non hai dato neanche un euro. Oh, mi fai finire un discorso, cazzo. Allora. Ma è clamoroso. Allora. C'è un signore che si chiama Bistoncini che ha vinto una cena con Giannino per la modica cifra di 3.100. Cioè 3.100 euro per andare a cena con Giannino. Io ma io vado a cena gratis con Giannino. No, ma soprattutto ascoltatelo alla radio, cioè è presente, no, la mattina, il pomeriggio, io... e pure il sabato a Radio 24. Per però cui, cioè, pagherei anch'io per andare a cena con 3.100 euro per andare a cena con Giannino. Dai, su, ma non esageriamo. È un finanziamento a un'associazione, a un istituto, sì, per carità. Ma una cena con Parenzo, quanto può no, valere? Io potrei offrirmi, ovviamente per una gentile signora, ovviamente, per una serata con una gentile signora che voglia... contribuire a iniziative speciali di questa trasmissione, anche suggerire delle iniziative speciali, potrei offrirmi per una serata. Sessualmente? No, adesso sessualmente bisogna vedere. Però, beh, ovviamente no, là il prezzo si ha. Che fai è molto interessante. Appunto ti dico. Questa iniziativa mi piace moltissimo. La sposo, aspetta che chiamo un attimo Roberto. Chi è Roberto? Scusa. Napoletano, direttore. No, però potrebbe voglio essere. Chiamarlo per chiedere se ci fa un trafiletto sul domenicale di domenica. Cioè, ovviamente deve essere una donna comprami molto ricca. Comprami che sono in vendita. Esatto, certo, esatto. Comprami benissimo. Che sono in vendita, canzone di Renato Zero che fra poco metteremo. No, che eri di Renato Zero. No, sì. Ah no, quella Viola è bene, Valentino. Sì. Viola Valentino, sì, scusami, mi sono confuso con Viola Valentino. Hai ragione, Viola Valentino è stupenda. Sì, hai ragione, ragione. Comprami, sono in vendita. Però qui è per iniziative speciali della Zanzara, per contribuire al successo di questa trasmissione, al perpetuarsi, a tutto quello che volete. Donne molto ricche, bello. Donne ricche, molto ricche. No, comunque, anche povere, anche benestà. Rom. No, anche no, donne rom. Io donna rom non ci vado, dai, su. Perché? Ma non ci vado con una donna rom, non mi avvicino a una rom. Ma cioè. Metti donne in generale. No, scusa. Dipende poi che rom, comunque in generale. Ma adesso non me ne frega, perché mi devi far andare su altri argomenti? Una donna, qualsiasi donna che voglia passare una serata col sottoscritto, stile Giannino, andiamo molto sopra quella cifra, ragazzi, dobbiamo andare molto sopra quella cifra, e che voglia contribuire a un'iniziativa a piacere che decideremo di questa trasmissione, oppure voglia contribuire a mantenere Parenzo, per esempio, a mantenere un collaboratore, a prendere uno speaker nuovo, eccetera, eccetera. Basta! Basta! Basta! Roberto da Bologna, vai Roberto. Ciao Cruciani. Dimmi caro, niente, dimmi. Io ti ho telefonato perché per un argomento a cui tieni molto, la mia prima volta con una mignotta. Beh, amico mio, Roberto, quando è successa questa cosa meravigliosa, questa cosa stupenda, questa notizia che io, come dire, fossi in te, scriverei, non dico su un diario che non esiste più, ma insomma, lo sostituirei addirittura con il compleanno, ma infatti, quando è successa questa cosa? Quando ti sei recato? Lunedì è stato, mentre stavo ascoltando la Zanzara mi è venuto proprio la voglia. Avevo già Non ho capito, te l'abbiamo fatta venire noi la voglia di andare a mignotte? Avete un po' contribuito, soprattutto te. Un pochino. Allora niente, finalmente ho telefonato alla ragazza in questione, italianissima. Mi sono recato in quello che a Bologna viene definito trombodromo. E ho consumato l'atto e devo dire che non mi sono divertito però. Ma scusa, dove sei andato? Non ho capito bene, Roberto. Allora niente, a Bologna ci sono questi quartieri, sì, al cui interno vi sono i trombodromi. E che vuol dire? Che sono sostanzialmente dei condomini in cui vi sono solo delle mignotte. Basta, 90%, 100% mignotte. E allora? E... Quanto hai pagato? Allora, niente, quanto hai pagato? Ho pagato 100 euro. Beh, molto hai pagato, Beh, li avevo da parte, non ho neanche contrattato, diciamo. E allora? Mi sono adeguato. Allora, no, niente, Parenzo, è interessante questa cosa perché lo ha fatto questo signore. Sì, non l'ho interrotto. No, ma lo ha fatto praticamente stimolato dalla Zanzara, capito? Questo dovrebbe farti pensare. Beh, ma no, ma è una notizia meravigliosa, stupenda. Cioè, abbiamo... cioè, chi ascolta Barisoni, ad esempio, si compra un libro di Einaudi. No, oppure va a giocare in borsa, che ne so. Oppure punta gioca in borsa, punta le sue fiche. von Hayek, von Mises. Ma no, ma non, lei, non è necessario, magari legge semplicemente il Sole 24 Ore. Invece, sì. invece il signor Roberto da Bologna, esatto, è stato stimolato dalla zanzara ad andare a puttane. Beh, sì, stupendo. Esatto. No, signore, no. Roberto, ma com'è andata come esperienza? Com'è stata? Non sono mica venuto, sai? Non, adesso, è finito qui, il tempo qui, prima. Qui è andiamo. Prima il tempo. Ma come è finito prima il tempo? Però adesso qui andiamo nel dettaglio, che è anche interessante, però poi Parenzo mi accusa, scendi troppo nel dettaglio, sono dettagli perversi, sono dettagli da voyeur, sono cose volgari, sono cose che non si possono sentire. Però Roberto, al di là di questo... 40? 40 minuti, dopodiché, di rapporto, e mi ha detto, o vieni oppure te ne vai. Allora ho detto, mi rivesto e me ne vado, dopo un po'. Non è stata... era un'esperienza che volevo provare, però non la rifarei, ti dico la verità. Ma perché non la rifaresti? Spiegami. Ah, sì, mi ha mandato via, mi fa, non vieni... Vabbè, ma ho capito, ma questo è un altro discorso, Roberto. Comunque, chiuso lì, finito lì. No, siamo partiti chiaramente con i preliminari. No, ma chiuso lì l'esperienza, dico. No, dopodiché, lei un po' era dispiaciuta. Allora ti dirò, mi fa, se hai 20 euro in più, chiamo la mia collega e ti aiutiamo a terminare col botto. Sì, invece tu no, non gli hai voluto dare 20 euro. Io più che altro, non fidandomi, sono salito con 100 euro precisi, ma ho provato a dire, scendo un attimo in macchina e poi... No, ho detto, dai, ti lascio qua perfino il cellulare. No, non si può, perché secondo me lei lì aveva un po' il timore reverenziale di questa qui che voleva interpellare, per cui non so. Vabbè, Parenzo non è convinto di questa tua esperienza, cioè è un miserabile pure lui, è un miserabile, perché... Roberto è un miserabile secondo te? No, non interagivo perché volevo ascoltare fino in fondo la testimonianza profonda. Che domani verrà pubblicata sul Domenicale del Sole 24 Ore, domenica. Non credo. La mia prima volta a Zoccole. Se però lui ritiene di dover spendere i suoi soldini, i suoi guadagni, in questo modo... Ma l'ha fatto una volta stimolato dalla zanzara, scusami. Ecco, no, ma non sarei aggiudicato. Tanto, un mio amico mi scrive, la prima volta io sono andato con una puttana a 16 anni dietro a un palo sulla Tiburtina. Dietro a un palo sulla Tiburtina. Però hai amici tutti un po' particolari, perché almeno uno che dato una volta ti può scrivere, ti scrivono tutti di questa, è curioso però, no? No, perché è venuto fuori l'argomento. Vabbè, Roberto, ciao, grazie di questa grande testimonianza e sono molto contento di averti iniziato a questa cosa, che per carità non è una mia frequentazione abituale, quella della prostituzione, però se la cosa ti ha stimolato va bene. Ragazzi, andiamo a Brescia da Bruno. Buonasera, vai Bruno. Ciao Giuseppe. Oh, dimmi caro, dimmi. Anche a quell'altro tipo che c'è in fianco da qualche altra parte al telefono. Vai, dimmi. È a casa a Roma perché è venerdì che succedono cose strane. Stasera ho picchi culturali di grande livello, stasera. Ma noi facciamo sempre così, alto e basso, amico mio, alto e basso, alto e basso. Quando è partita la zanzara, tu eri da solo, hai costruito da solo il successo di questa trasmissione. Dillo forte, lo puoi dire anche forte, contro tutto e tutti, d'altra parte. Le prime trasmissioni ti seguo da allora e quindi sei stato fantastico. Poi ti sei tirato dietro qualche tirapiedi tipo Telese, quella roba di tirapiedi adesso, perché tirapiedi. E poi adesso concludi il tuo, ma non concludo cazzo, con quell'altro elemento che ti stai portando alle caviglie da qualche tempo. Alle caviglie, sì, che lei è simpatico, è come un gatto attaccato ai maroni, dicono anche a Bologna, quindi. No, di peggio, come un'ape nelle mutande. Vabbè, l'hai già ripetuta 40 volte questa cosa. Vabbè, Bruno, dimmi allora. Volevo darvi un contributo sul, non so se l'avete fatta una statistica, a proposito delle conversioni, perché bisogna farci un'analisi sopra, senza, anche per distaccare. Tra l'altro un altro mio amico mi scrive, non si può andare a Troia con i denari lesinati, cioè se bisogna andarci sul serio, senza un po' essere, senza il braccino corto. Cioè se Parenzo fosse un puttaniere, cosa che non è, cioè se Parenzo fosse un frequentatore, sicuramente, guarda, le apparenze ingannano, sicuramente uno che spenderebbe un sacco di soldi, cioè chiamerebbe certo un escort a 1000 euro, cioè non andrebbe a spendere 100 euro al trombodromo di Bologna. No, bravo, cioè se frequentassi le prostitute, ne prendresti un escort da 1000 euro. Sì, ma in stile Tognazzi, Amici miei, sicuramente. quello che ne sai che andava a Mignotte Tognazzi? No, ah, nel come film, nel film Amici miei, che lui va in questo vabbè Bruno allora marina. Il problema è che non si deve mai chiedere quanto costa prima, altrimenti non ce la farai mai, capisci? Sì, però dopo che... quando presentano il conto, dimmi. Volevo farti, avete fatto una statistica sulle conversioni, cioè sulle signore, parlo delle signore, perché di uomini convertiti all'Islam ne sento pochi, sento soprattutto signori, chissà perché. Se tu le guardi bene, su 8 persone, 8 signore anche italiani, io parlo delle italiane, che si convertono all'Islam, 9 sono dei cessi autentici. Ma no, ma dai, quindi, adesso questo che c'entra, no, dai, 9 sono cessi autentici. Ma e no, ma dai, tu stai dicendo fai tu... un'analisi, fai un'analisi. Vabbè, ma questo, dai, questo è guarda razzismo puro. Guarda la mitragliata puro di ieri sera alla trasmissione di Formigli, no? Guarda quella mitragliata di 7 islamiche che c'erano lì. E poi dimmi se tu cosa ci faresti con qualcuna di quelle lì, onestamente, onestamente. Poi volevo chiederti... Ma questo adesso sei veramente al razzismo puro. Cioè, adesso fra poco ti presento tra l'altro una persona che non è affatto brutta, come dici tu, racchia, e che invece si è convertita all'Islam, una giornalista. Per cui stai dicendo veramente una stronzata. Però, per carità, qui noi rispettiamo tutto, anche l'opinione di questo ascoltatore Bruno Brescia, che dice chi si converte all'Islam, una donna che si converte all'Islam, quelle che abbiamo visto ieri sera in quella trasmissione di Piazza Pulita, sono tutte racchie. Vabbè, questa però, Bruno, abbi pazienza. Comunque, vai avanti. Dimmi. Quelle, non solo quelle, anche le altre, guardane bene le convertite all'Islam e poi fai una statistica. Ah, voglio dire alla persona che è in ascolto che non l'abbiamo programmata sta cosa, è venuta da sola questa telefonata, dopo adesso la interpello, no, perché sembra che l'abbiamo fatta apposta, non è venuta assolutamente casuale, vai. E poi voglio difendere Mario Giordano perché quello che dice è sempre basato vabbè, su adesso verità profonda sempre, e non è questione di sempre. Ieri ha detto una cosa, secondo me, battagliando con Cacciari, legittima. Altre volte dice cazzate come tutti noi, dipende dai casi, dai, su, non è che non abbiamo totem qui, non abbiamo idoli, non abbiamo, ogni tanto sì, De Luca sì, però anche lui ogni tanto dice qualche puttanata. Allora, caro Parenzo, l'altra sera andando alla gabbia mi hai detto ma lo sai che c'è una giornalista della gabbia che si è convertita all'Islam? Eccola qui, si chiama Valeria Castellano. Ciao Valeria, buonasera, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Come stai? Come stai? Benvenuta cara. Bene, salam aleikum. Aleikum salam, che vuol dire che la pace sia con voi. Come si dice, come si dice in arabo? Salam aleikum. Ma fallo dire a lei che è convertita, scusa, non te che sei ebreo. Come si dice, Valeria? Salam aleikum è quello che dico io come prima persona, tra virgolette. Chi mi risponde dice aleikum salam, al contrario. Scusa, ma tu come ti chiami? Che la pace sia con voi. Che la pace sia con voi. Tu ti chiami Valeria Castellano, ma in realtà ti chiami Valeria ormai? Khadija Castellano. Khadija è un nome arabo in generale, però non è obbligatorio cambiare nome. Sì. C'è Buttafuoco che Buttafuoco si, fa chiamare non so come. Sì, no, non Pietrangelo si fa chiamare in un nome. Io non me lo ricordo, lo conosco però non ricordo come, in che modo lo ha cambiato. In ogni caso si cambia quando è un nome riferito ad un santo. Per esempio, Santa Maria, San Giuseppe, allora si sceglie un nome islamico. Io per cancellare, sapete... quasi per cancellare il passato, dici tu. Cioè, quando uno ha un nome di un santo. No, vabbè, in passato c'è cioè riferimento a un santo. Allora, per togliere il riferimento a un santo, uno si fa chiamare. No, si fa chiamare. Ma scusami, ma è uguale nel cristianesimo. Quando uno si converte al cristianesimo, e ce ne sono, Magdi Cristiano Allam ha fatto la stessa cosa al contrario, no? Sì, chi dice il contrario? No, ma perché non è una cosa dei fondamentalisti, perché sennò fai passare il principio. Ma chi ha detto che, roba... è una cosa fondamentalista? Ma io ti conosco mascherina. Ma io non ho detto che è una cosa. Io ti conosco. Caro, io non ho detto che è fondamentalista. Come so che sei uno straordinario provocatore e mangiafuoco burattinaio, io dico agli ascoltatori della radio, democratici, non di sinistra, ma democratici e liberali, siamo noi, allora, come sono io, eccetera, che in realtà Magdi Cristiano Allam ha messo ha fatto esattamente l'operazione inversa. E chi dice al contrario? Ma te l'avrei detto anch'io, per assolutamente. Per cancellare il suo nome islamico, lui ha messo quello cristiano. Vabbè, Valeria. Ha aggiunto quello islamico. Quindi non c'è nulla di strano. Senti, Valeria, ma quando è che ti sei convertita all'Islam? Scusami. 2 anni e mezzo fa. Scusa, io però ti voglio fare una cosa, ma l'ho detto anche prima che tu fossi in collegamento. Ma perché? Quanti anni hai? 30. 30 anni adesso, no? Uno perché a 28 anni aderisce all'Islam? Cioè, cosa ti deve passare per la testa? Tra l'altro voglio smentire quello che ha detto prima l'ascoltatore, perché potete vedere tutti anche dalle immagini su Google, eccetera, che Valeria Castellano è una ragazza piacente, cioè non è vero. Vuoi rispondere tu all'ascoltatore di prima che dice che tutte quelle che si convertono sono tutte racchie? Beh, guarda, ti posso dire una cosa, quella frase fa capire esplicitamente qual è il ruolo della donna qui in Occidente. Cioè, nel senso che si dice sempre che la donna nel mondo islamico sì. È una donna considerata inferiore all'uomo. E invece? Ecco, nel nostro fantastico occidente una donna viene giudicata in base alla sua bellezza, se è racchia o no. Cioè tu dici che da questo punto di vista, da questo punto di vista è meglio la donna nel mondo islamico? Ma certo, assolutamente. Cioè viene trattata meglio, secondo te nel mondo islamico la donna viene trattata meglio? Non è il discorso di essere trattata meglio, premesso che tu ha un ruolo più importante. Che ne so? No, allora dobbiamo considerare innanzitutto che ci sono stati e stati. Se tu vai in Africa, le comunità cristiane, ma parliamo in generale. Ragionano allo stesso modo dei musulmani e le trattano male le loro donne, magari per una questione culturale. Nel mondo islamico la donna è considerata assolutamente uguale all'uomo, ma non è così. Non è così, Valeria, dai, nel concreto, ma nel concreto sono trattate come delle bestie, spesso inferiori, non possono guidare in alcuni paesi, non possono accedere a cariche importanti, dai. Ma appunto prima ti ho fatto una premessa, che tu devi distinguere tra l'Islam e la politica che viene applicata in determinati Ho capito, però poi la realtà è quella, è come uno che voleva distinguere tra il comunismo e il comunismo come veniva applicato, poi alla fine il comunismo era quello. Perché devi distinguere? Perché il comunismo è una cosa, Sì, però poi alla fine veniva applicato in quel modo e non c'era la democrazia, sì, però il comunismo era un'altra cosa, ho capito, però dal punto di vista teorico, fermo che c'è la pubblicità, poi torniamo, Valeria Castellano, giornalista della Gabbia, è abbastanza curioso, ma islamica da 2 anni. Vedi che sei stupido veramente, non mi meraviglio di te. La Zanzara. Può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Allora, siamo con Valeria Castellano, giornalista della Gabbia, convertita all'Islam circa 2 anni fa, poco più di 2 anni fa. In che modo? Hai conosciuto un ragazzo islamico? Hai avuto un'illuminazione? Hai letto un testo? Che hai fatto, Valeria? No, io ho sempre viaggiato tanto. Sì? Ed è stato proprio in uno di questi viaggi, sì, un viaggio, che ho iniziato, diciamo, a parlare con sì. alcuni musulmani che e poi? Mi avevano interessato e incuriosita. In realtà ti dico che io non ho fatto nessun cambiamento, io ero arrivata a delle risposte che avevo cercato sempre dentro di me. Sì, ma cosa ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto del Corano, di Maomo? Che ne so? No, il punto è che io quando ho conosciuto l'Islam ho capito che l'Islam era ciò che io già avevo dentro di me. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto avevi l'Islam dentro di te? Sì, io ero arrivata a delle risposte, semplicemente sì. quando ho scoperto cos'era l'Islam, ho scoperto che l'Islam conteneva in sé quelle risposte e quelle convinzioni che, alle quali ero già arrivata individualmente. Per esempio, dimmene una, se no poi facciamo notte. Il rapporto tra l'uomo e Dio, il rapporto tra l'uomo esempio, e Dio, sì. è un uomo esclusivo tra te e la divinità. Ah, ma quello sempre, ma quello dappertutto. Non c'è la Chiesa, ma quello dappertutto può essere così. No, perché sì, l'Islam sei tu. Ma singolo. Perché non porti il velo? Aspetta, fammi rispondere a una per una velocemente, però nella Chiesa c'è l'intermediazione, c'è il clero che si confessa dei tuoi peccati, che interpreta la Bibbia. Nell'Islam questo non c'è, sei tu che leggi. Vabbè, d'accordo, ma questo non è che uno può essere spinto, non è che può essere spinto solo da questo. Ti sarà piaciuta qualcosa dell'Islam? No, che ne so. Mi hai fatto un esempio. Un'altra cosa. Il senso di Dio, il fatto che Dio è uno, il fatto tu per essere musulmano devi credere soltanto in una cosa. Sì, ma come cosa? Si fa a essere stato fino, no, a 28 anni, fino a 28 anni in vivere qua in Occidente, aderire all'Islam, convertirsi? Ma io lo trovo, c'entra? Ma lo trovo una cosa, insomma, deve avere avuto qualche delusione nella vita. Ma che no, ne so, guarda, è successo. Ma la cosa più divertente, più interessante, se diventi in buddista, per esempio. Ma sì, ma il buddismo non fa male a nessuno. Ma l'Islam, perché l'Islam, beh, sì, quelli là ammazzavano in nome dell'Islam, per esempio, cioè c'è una parte di Islam. Vabbè, e che c'entra? Tu con questo non puoi dire che l'Islam, no, non è qualcuno. No, però insomma è una religione, sì, è una religione che oggi, insomma, no, contiene in sé, non da parte di tutti, ma contiene in sé evidentemente i germi della violenza, o no? No. No, niente. No, perché potresti dire, è una religione di pace, è una religione di pace l'Islam. In Norvegia, in nome del cristianesimo, sono state uccise decine e decine di persone. Ma da parte di una persona una volta, amica mia, cioè da parte di una persona una volta, di un matto scatenato una volta, no? Perché quelli siano gente. Beh, anche guarda che anche Bush diceva di essere stato ispirato da Dio e che bombardava l'Iraq e l'Afghanistan perché era stato, cioè tu stai dicendo che Bush, Dio, che Bush ispirato da Dio significa è uguale a quei kamikaze che si fanno esplodere oppure che sparano, no, in nome, no, non ti sto dicendo questo. Vabbè, però dico che fare una generalizzazione è un passo un po', cioè tu dici ammazza, so, tutte le religioni ammazzano, no, no, no, non posso, ho detto questo, ho detto che tu non puoi fare un collegamento tra la presenza di pazzi, terroristi, assassini, però che bastardi, che ha, ah, bastardi, scritto, sì, sì, assolutamente. A te piace il titolo di Libero? Da lì, no, no, perché lì si è parlato di islamici in generale. Ma insomma, si doveva dire bastardi terroristi, bastardo l'ISIS. Sì, però ammazzano in nome dell'Islam, capito? Cioè ammazzano in nome del, ti vorrei far presente che hanno ammazzato e ammazzano in nome, sì, di, dicendo Allahu Akbar, che è la stessa cosa che magari dici tu. Cioè, hanno questo, pronunciato una frase, una frase. Una frase. Questo non vuol dire ammazzare in nome di Dio, perché loro alla base hanno degli interessi economici, degli interessi di potere. Questo è vero, questo è vero. Senti una cosa, vi posso dire la cosa più interessante che io, dimmi, ho riscontrato, sì, dell'amica e collega Castellano, sì. Valeria Castellano. Sì, Valeria Castellano, ma io voglio dire anche il nome arabo per rispetto. Ma non lo sai il nome arabo? Khadija. Ecco. Sì. Allora, e la cosa bella è che eravamo a cena dopo la trasmissione, allora? E c'era anche l'ottimo Andro Mercù, il quale per rimorchiarla ha detto: dai, beviamoci un bicchiere di vino. Io dicevo: Andro, no, lei non beve il vino come il signor Piccardo che era davanti a me, quindi non ordiniamolo neanche noi, perché tanto possiamo berci dell'acqua, il vino possiamo bere. Ma non ho capito, uno non può ordinare, non può ordinare il vino davanti, no, da... certo che può, loro non hanno detto, cioè tu per molto... rispetto non bevi il vino, io davanti a un musulmano altre volte, certo, io per, cioè davanti a un musulmano non no, se sono a cena, no, ti dico cosa, come mi comporto, ma per educazione. Ma che... tanto il vino, ma lo posso, Valeria, bere... ti dà fastidio se qualcuno beve il vino davanti a te? Ma no, no, non credo. E allora perché non bevi il vino? Pare? Perché so, perché non ho bisogno in quel momento di berlo. Posso farne a meno, non è una grande rinuncia. Se sei in, sì, vita, diciamo, un ospite a casa mia. Compagnia, senza la compagnia non ne ho avuto voglia. Vabbè, senti, tu, perché non porti il velo? Io non porto il velo perché in questo momento non mi sento pronta a portarlo. Personalmente non credo che sia obbligatorio, questo ci sono visioni diverse, io ho la mia opinione, gli altri hanno la propria, io non mi sento pronta a portarlo, sicuramente poi il lavoro che faccio non mi aiuta, insomma immaginate una inviata che è in TV... Col velo, beh, sarebbe meraviglioso, sarebbe allora, non lo porti per convenienza, amica mia, però, no, siccome faccio quel lavoro lì non lo posso portare, dovresti pronta. Fare l'inviata col velo, dovresti fare non l'inviata col... pronta. Ma se non sono pronta a indossarla non è che... Se io avessi fatto una scelta di convenienza non avrei detto neanche che sono musulmana, invece l'ho detto perché non mi interessa. Ma quello hai fatto bene, giustamente, mica uno si deve vergognare. Sì. Senti una cosa, io voglio capire una cosa, ma secondo te chi è più sottomessa, la donna occidentale, diciamo, o quella che vive in questo mondo qui e non è musulmana, oppure la donna nell'Islam? Dipende dai punti di vista. No, dal tuo io punto di vista. Io ti dico, più che dai punti di vista, scusa, mi ho sbagliato io a pronunciare la frase, dipende dagli aspetti, dall'angolo. No, vabbè, ma dai, adesso... In pratica, la donna, nel mondo occidentale, secondo me, sotto certi punti di vista, è più sottomessa. È più sottomessa, perché? Perché è più sottomessa? Noi donne occidentali siamo, come dicevo prima, strettamente legate a questa fisicità, alla bellezza. Alla bellezza. Usciamo di casa con la minigonna e i tacchi super truccate, perché poi in fondo vogliamo piacere. Perché nell'Islam anche no. Anche rapporto col sesso, libero. Meno male. Io ho tante amiche che saltano da un letto all'altro, poi fondamentalmente sono sole e sognano l'amore. Ok. Vabbè, ma che io c'entra? Questo succede dappertutto, mica solo nel mondo occidentale oppure nell'Islam, cioè succede dappertutto. Guarda, invece la donna islamica. Di piacere? E invece no, la donna islamica questo... che è più proba, più. La donna islamica è come l'uomo. Tu dimmi una cosa, vai in giro con i pettorali scoperti e i capezzoli in vista, con il jeans attillato sul culo perché così è più bello? Cioè la donna islamica, tu dici, è coperta come l'uomo? Sì, sì. Non dipende dal suo corpo così come dipendiamo noi donne occidentali. Ma meno male che esiste, corpo. Meno male che esiste l'Occidente, amica mia, dove ci sono quelle persone che vanno in giro coperte e le persone che invece vogliono mostrare i capezzoli, vogliono mostrare il culo. Ma quello lo si può fare, dicendo... quello lo possono fare tutti. Ma invece nei paesi... Quello che ti sta dicendo Valeria, però, dimostra esattamente una cosa. Dai. Quello che ti dice la Castella, quello che ti dice lei in questo momento, dimostra una cosa. Cosa dimostra? Che a lei non l'ha obbligata nessuno in questa scelta. Chi ti sta dicendo l'ha obbligata a qualcuno, ma nessuno l'ha detto. Come spesso si dice che la donna è sottomessa, mi pare che lei abbia fatto un percorso consapevole di avvicinamento e di conversione. Ragazzi, la donna nei paesi islamici, la donna non conta un cazzo, diciamo la verità. Valeria, nei paesi islamici la donna non conta un cazzo, dai. Ma non è vero, ma tu di cosa parli? Intanto tu mi hai detto che le donne nei paesi islamici devono andare in giro scoperte, questo non è vero. Guarda, ti faccio sentire. Va in Tunisia. Ma non ho detto questo, Se sono tutte coperte. Ma non ho detto affatto questo. Non ho detto che esiste l'Occidente. Perché possono esserci le donne che vanno in giro nude e quelle che vanno in giro scoperte? Beh, certo. L'hai detto o non l'hai detto? Ho capito, certo che l'ho detto, ma mica non intendevo dire che in Tunisia non ci sono donne, ci sono solo donne coperte. Allora, sto dicendo che il nudo, la pornografia, ma non solo la pornografia, il nudo, che è una libertà pazzesca, la possibilità di vedere delle pubblicità con le donne nude, la possibilità di vedere certi spettacoli, certa televisione. Beh, sì, bello, anche quello è bello. A qualcuno piace, questa è la libertà. Perché per vendere una ciabatta devi vedere la donna nuda, sì. La ciabatta, guarda, non vedi, la pubblicità non funziona. Tra te e la Boldrini vedo molte assonanze, tra te e la signora Boldrini, quando parlate del corpo delle donne. Però volevo capire che cosa pensi della poligamia. La poligamia, sinceramente, no, non è complessa, è molto semplice. Sì, te lo dico sinceramente. Sinceramente. Quanti uomini qui in Occidente? Allora, premessa, quanti premessa, uomini? No, è importante questo. Aspetta, una premessa. La poligamia non è una cosa così diffusa come si racconta. Vabbè, ma quello lascia perdere, sì. Detto ciò. Quanti uomini qui in Occidente hanno l'amante? Per farti un esempio. Molti uomini. E magari la portano avanti per tantissimi anni. Magari la moglie lo sa anche, perché succede. Sì. Lo sa anche, però chiude un occhio. Solo che si fa tutto di nascosto. E invece? La poligamia parte dal presupposto che effettivamente c'è una differenza tra l'uomo e una donna. E allora? E la donna, effettivamente, cioè proprio numericamente, ci sono 8 donne per ogni uomo. Sì. Ok? Sì. Quindi è possibile, capita, che l'uomo vada a cercarsi l'amante o abbia bisogno di un amante, o che un matrimonio dopo 10 anni non funzioni più. E dunque è meglio la poligamia del tradimento? Certo, assolutamente. No, ragazzi, innanzitutto ti dico che per avere due mogli, la prima moglie ti deve dare l'autorizzazione, se no tu non fai nulla. Mazza, nulla. Che progresso. Scusami, è bello invece tradire la propria moglie. Ma quello, quello fa parte del mondo della libertà, amica mia, non la poligamia. La poligamia non è sempre libertà. Ah, la poligamia è libertà. Ma io non ce la posso fare. A parte che spesso vengono costrette. No, ma io non ci posso credere che tu, Valeria, non ci posso credere che tu, che vivi in questo mondo, che fai la giornalista in un programma sulla 7, tu dici che la poligamia è meglio del tradimento. Io non ci posso credere. Io non mi faccio condizionare dalla parola, è diverso. Ma è uguale. Condizionare dalla. Ma no, ma la poligamia per te è meglio avere più rapporti, diciamo, scritti, più matrimoni, piuttosto che un uomo che ha più donne. Invece perché la donna non potrebbe permettersi di avere 4 uomini, 5 uomini? Perché? Allora, spiegami, perché invece la donna no? Io questo sinceramente ti dico che non lo so, nel senso. Ma non lo che sai perché è là la discriminazione, e la discriminazione no, è quella. No, non è la discriminazione. Dai, io questo non lo so, perché io accetto anche delle cose che sono scritte nel Corano, che è per me la parola di Dio e che non arrivo fino in fondo a capire. Detto ciò, è Valeria, vero che tra l'uomo e la donna c'è una differenza. Ma, beh, ma a parte che per me non c'è nessuna differenza, invece io per donna no, è un qual è quella ormonale? ormonale ma ormonale, siamo alla differenza ormonale, sentimenti, come sentimenti. Ma non è vero, io come donna, sentimenti, ma non è vero, certo, ma la donna e l'uomo, ma tutto questo cosa significa differente. Ma che cosa ha a vedere con i contratto, col contratto? Giustamente Parenzo sta zitto, che è abbastanza spiego. Imbarazzato, però la spiego, perché no, no, mi voglio inserire, guarda, fatto della, dai, della, dai, ma di che parliamo, la poligamia è una cosa che intanto non c'è, è prevista soltanto, certo, in alcuni ci sono paesi persone ara, che conosco, non è, ma ragazzi, non stiamo facendo ma un convegno, fa, qua ma la dottrina parlare, dell'Islam, non stiamo facendo un convegno, la cosa è abbastanza chiara, la signora Valeria Castellano, che io rispetto per carità, islamica da 2 anni e mezzo, ha detto che la poligamia è meglio del tradimento, dunque è meglio introdurre la poligamia in Italia, sì, perché piuttosto tu stai con una donna, ascoltami, tu stai con una donna, la sposi, hai magari dei bambini, dopo 10 anni ti stanchi, ti rompi le palle e l'abbandoni. E allora? Okay. Ma anche la donna allora abbandona l'uomo, amica mia! Beh, certo, sveglia! Sveglia! Sempre, stiamo facendo un altro discorso. Anche nel mondo musulmano la donna può abbandonare l'uomo. Io sai quante donne divorziate conosco. Vabbè, allora sai quante ne conosco? Allora, dunque, mettiamo che l'uomo abbandona la donna. Dunque, l'uomo abbandona la donna. Allora l'abbandona. Non è meglio un uomo che invece, anziché abbandonarla, che fa? Continua a prendersene cura. Questo sempre se vuole ma la donna. Va bene, la donna, ma questo è già previsto, è già previsto dalla separazione dei divorzi, che uno se ne prenda cura, ed è anche, come dire, è in qualche caso di esagerato. Cura differente. E invece che dovrebbe fare? Sposarsi con più donne? Sarebbe meglio avere altri contratti di matrimonio? Ma sì, vabbè, ragazzi, io davanti a queste risposte che c'è. Ma sempre con l'autorizzazione. E perché no le donne? Ripeto ancora una volta, perché le donne non possono avere invece? Aspetta, fammi possono le donne, non lo so io. Ma non possono nell'Islam, non tu possono. Tu mi stai dicendo ah, che se un uomo occidentale. Ma tu hai un fidanzato? Aspetta, sì. Se un uomo è islamico, sposato, si trova un amante, ok? Sì. La moglie lo sa, ma chiude un occhio. Questo sì va bene. Se invece un uomo musulmano si trova un amante, va dalla moglie, glielo dice, sì, e la moglie dice: io accetto. A parte che non funziona così, prendi una seconda moglie. Sì, sì, che funziona così. Ma in quel momento la donna è libera di dire accetto o rifiuto. Se rifiuta, divorzi. Ma è un mondo ideale, è un mondo ideale che non esiste. I matrimoni spesso sono combinati, la donna è assolutamente sottomessa, eccetera, eccetera, eccetera. Amica mia, sono d'accordo. È così, ma non è che sono d'accordo. È così. La cosa fondamentale è un'altra. Sono d'accordo, che il tradimento. Il tradimento, scusami un attimo, il tradire la donna con cui uno sta, fidanzato o moglie che sia, la separazione, il divorzio, è l'anima dell'Occidente, no, l'anima. Anche guarda che il divorzio nel mondo islamico, dai, esiste, su, ragazzi, esiste il Corano. Il mondo islamico esiste nel mondo islamico il divorzio esiste da 1000 anni prima. Ma io non ho capito, il tuo fidanzato, tu potresti sopportare che magari diventerà tuo marito, potresti sopportare che no. Cioè, no, potresti, no, io non lo potrei mai sopportare. No, che sposa anche un'altra. Neanche, se sposa anche un'altra. No, ma non potrei sopportare neanche che si prende un amante. Vabbè, ma quello non tutti in generale. La cosa in nessun. Ho capito, invece essere far parte di un bell'harem dove ci sono 2 o 3 persone sposate, tue colleghe sposate? Beh, tu non potresti sopportarlo, non sei un'islamica, cioè no, no, ti ho risposto, no. No, vabbè. Io non potrei sopportarlo, io gli vabbè, direi vale. No e divorzierei. Divorzieresti, vabbè. Ma allo stesso modo lo farei se si trovasse un amante. Va bene, ti saluto. Lo farei comunque, musulmano no. Vabbè, Ciao, ti abbraccio, ciao, ciao, a presto. Ciao. La Zanzara. Ragazzi, abbiamo sentito delle cose pazzesche, eh? Delle cose incredibili. Ti voglio segnalare, mentre dici cose incredibili. Ah, io dico cose incredibili. Io ho ancora il coraggio di dire che io dico cose incredibili. No, ma io sulla poligamia non sono d'accordo. Ma non è che sulla poligamia, ma se uno pensa delle cose sulla poligamia e sul tradimento. Non è la mia, non è la mia parrocchia, l'ho detto mille volte, quindi non mi interessa difendere nessuno. Domani vai, a manifestare con signori che sono spesso poligami. No, ma tu, questa è una bestialità che hai detto. Alcuni saranno poligami. Alcuni saranno poligami. Italiani di fede musulmana. Alcuni magari sono poligami. Ci saranno islamici poligami. Manifestare contro gli attentati terroristici dei fondamentalisti islamici a Parigi. Vabbè, vai, ma se te diverti questo così, vai. Se te diverti questo, così. No, ma no, avete chiesto, tutti giustamente chiedono, fate qualcosa. Vabbè, vai. Allora poi vai avanti. Non vanno lasciati soli. Vai, dimmi. La notizia interessante, però, la dico agli amici di sinistra che attaccano Israele. Non so se faranno delle manifestazioni. Vabbè, dai, su, Davide, che devi dire? Questo povero poeta palestinese. Ma chi sbatte con le babbe? Che chiudete questa puttanata? Ma chi se ne frega? Dai, su, Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai, poeta palestinese condannato a morte. Ma questa è la Zanzara, non è mica Lime. So, il poeta palestinese condannato a morte. Ma che cazzo ci frega? Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai. Il poeta palestinese condannato a morte. 20 minuti. Ma come lo spieghi? Che è il poeta palestinese condannato a morte? Davide, scusa, spiegami che cos'è. È una polemica contro l'Arabia Saudita e contro Renzi. Ma ti pare? La polemica, ma spiegati meglio, ma qui non è un convegno. Allora, no, ma infatti se me la facevi dire, dico vabbè, dai, forza. Gli amici di sinistra che protestano, gli amici di sinistra che protestano contro i palestinesi. A favore dei palestinesi. È già complessa la cosa. Sì. Che in Arabia Saudita hanno mandato a morte un poeta palestinese perché aveva dubitato dell'esistenza di Dio in Arabia Saudita. Vabbè. Abbiamo capito. Qualche giorno fa qualcuno del nostro governo era andato a stringere la mano. Vabbè, ma quello tutti i governanti del mondo vanno a stringere la mano con i principi dell'Arabia Saudita. Qualcuno tutti. Difenderà sto poeta palestinese che sto a morte dall'Arabia benissimo, Saudita. Benissimo, salviamo il poeta palestinese. Nessuno. Andiamo a punto a capo. Salviamo il poeta palestinese in Arabia Saudita. Per carità, grande rispetto. Giuseppe dalla provincia di Chieti, bravo. Prima c'è il traffico. Vai. Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. La Zanzara. Di quanti testimoni ha bisogno una donna nell'Islam, comunque nelle società islamiche, nel caso in cui dovesse venire stuprata? Di quanti? Chiedile di quanti testimoni ha bisogno, che sennò poi viene lapidata per adulterio. Ragazzi, uno dei tanti messaggi al 393-71-71-701, siete sempre vivi, carichi. Un'altra mi scrive, spiega alla convertita che la legge araba consente, legge araba, insomma, la legislazione ispirata alla legge coranica consente il divorzio alle donne, ma restano senza figli, casa e soldi. Allora, Giuseppe, dai, provincia di Chieti, Giuseppe. A Cruciani, 20 minuti, ma era malata quella? Ma insomma, qualche cosa c'aveva secondo me. No, però per carità, io rispetto tutti, ma come persone naturalmente, però quello che dicono lo contesto, questo è il punto. E lo contesto anche fortemente in questo caso, perché rimango convinto che uno a 28 anni che aderisce all'Islam, dopo una vita passata in Occidente, aderisce all'Islam, non è che diventa buddista, eccetera, che pure secondo me qualche problemino c'è. Però nel caso dell'Islam il problema è ancora più grosso, è ancora più grosso. Io non sopporto, già di base non sopporto le religioni. Figuriamoci uno che in Occidente a 28 anni aderisce all'Islam, amico mio, dai Giuseppe, non è normale, non è normale, io penso che non sia normale. Poi dopodiché, amico mio, uno vuole aderire all'Islam, libero di farlo, certo. Giuseppe, dimmi. Crucià, ma il suo sciacquino, no? Sì. Cocainomane, comunista di merda, penso che ti querela se non t'ha già querelato, Giuseppe. Sì. Sto aspettando. Lorenzo, l'hai querelato? Ma dove l'ha preso? No, al circo. Di merda posso anche accettarlo, a patto che quando lo vedo si palesi gli tiro una testata. Cocainomane però no, perché questo è brutto, capisci? Questo ti costerà piuttosto caro, temo. Sto tremando. Allora, ma questo viene messo da parte i due soldini che hai, sai? Allora, perché non lo riporta nel circo? Fa il pappagallo nano, gli sta bene. Pappagallo nano. Il pappagallo nano, che vuol dire? Cioè, dovrebbe fare il pappagallo nano. Vabbè, Giuseppe, no, però se hai chiamato per dire questa puttanata, te possiamo anche fare a meno. No, io ho chiamato per parlare di una cosa seria. Io attacco il suo sciacquino perché lui difende i terroristi islamici. Ma non mi pare proprio che difende i terroristi. Si può dire tutto, ma non che difende i terroristi islamici. Ma non è che li attacca, cioè li quasi difende, insomma. Cioè, si trova in difficoltà a parlarne male. Allora, se gli americani al tempo di Hitler non avessero detto bastardi nazisti tedeschi, si fossero posti il problema, dice, ma noi diciamo forse non facciamo del male, lei, forse lei non ha capito perché io pensavo fosse un po' idiota, e lo è totalmente. Fin dal primo giorno ho detto che io sono a favore del bombardamento del califfo e del territorio contato dall'ISIS. Vabbè, Giuseppe, allora con gli americani, questo qua o lo rimanda al circo oppure lo manda col turbante in mezzo ai cammelli, così lo stuprano anche perché è ebreo e ce li fanno la festa e ce lo togliamo da torno. Ma perché domani vedrai che andrai in mezzo agli islamici a Roma e non gli torceranno un capello. Perché Giuseppe, allora fa una trasmissione, sono persone che conosco. Non una trasmissione, tutta faccio una domanda. La tacchia. Perché non gliela chiesta la signora che parlava prima? La tacchia. Che lei cosa? Non lo sa. La? Tacchia. Che è la tacchia? Nell'Islam. Vedi che non lo sa. Ma si informa. Vedi su internet. La tacchia. Vedi su internet. Vai, dimmi cos'è. Dimmelo tu. Allora, la tacchia permette agli islamici di sembrare che sono d'accordo su, diciamo, sulle opinioni che non le vanno bene. Cioè, sembrano che sono d'accordo. Le opinioni che non le vanno bene. Tu non vai d'accordo, il tuo cervello non va d'accordo con l'italiano. Con l'italiano, però, scusami. Giuseppe, però no, va bene. Scusi, ho sbagliato. Mi scusi, no, lei da grande divulgatore scientifico mi ha corretto, ha ragione. Il suo problema è che se lei già fa difficoltà a comprendere le cose normali italiane, come cazzo fa a comprendere le cose degli altri? Vedi, io di solito quando parla lei, capito? Io cioè quello fa bip bip bip, mo stasera la sto sentendo, però a me mi fa venire il vomito. Comunque, guardi, vuole vomitare con Parenzo, vabbè. Guarda su Google cosa ha trovato. Cruciani, su Google, la vediamo. La tacchia. Io conosco tacchini, i tacchini, tacchia, la tachicardia conosco, no? Lo so, ma si informi bene. Ma adesso mi informo, però Giuseppe, sono le 20:28, adesso non mi posso mettere a cercare cos'è la tacchia. Già c'ho Parenzo che vuole fare i convegni ogni tanto per spiegare che c'è un poeta, un poeta palestinese in pericolo in Arabia Saudita. Va bene. All'albo dei giornalisti è scritto? Beh sì, fino a prova contraria. Capisco perché è ridotto così il giornalismo italiano. Vabbè, Giuseppe, io capito. Mario da Cremona, vai Mario. Eccomi. Dimmi Mario, dimmi. Senti, io volevo sapere perché Terenzo rompi i coglioni con la storia. C'è anche il Conte Tacchia, peraltro. C'è anche il Conte Tacchia. La tacchia, quello coglioni, con... Terenzo rompi i coglioni, chi va a puttane un miserabile. A me andare a puttane mi ha salvato la vita. Ah, questo è interessante. Ti ha salvato la vita andare a puttane, Sì, perché mi ha fatto uscire di una grande depressione. Ero sposato 20 anni, mia moglie mi aveva lasciato e io ero in depressione solo, volevo ammazzarmi. Invece ho fatto un po' di viaggio a Cuba. Mi sono divertito, trombavo come un animale, sono andato in Thailandia, trombavo come una bestia e sono uscito fuori a depressione. Beh, io direi, stavo quasi per ridere se la cosa non fosse, come dire, in qualche modo importante, perché ha a che fare con la vita, col recupero da una situazione complicata. Sì, dopo 20 anni di matrimonio, cazzo, ho conquistato la mia libertà, mi sono messo in gioco e io ti posso dire che io quando vado sempre a Cuba, perché vado 3 volte l'anno, beh, certo, cazzo, sono felice. Sei felice. Io li pago proprio, mi dice no amore, no, non chiero dinero, quiero stare con Dio, ma io li devo pagare, c'è anche la brava ragazza, io la devo pagare, sono soddisfatto quando la pago. Però dico, adesso tu non crederai mica quando ti dicono no dinero, non voglio il dinero, eccetera, quelle vanno con te perché vogliono. Sì, lo so, la vita è dura, lo so, ma io sono un puttaniero moderato, cioè perché andiamo a mangiare, le compri regali, poi gli do, cioè, non è che sono un puttaniero, sì, però... io ti ho venduto la trombo. Però Mario, cioè, sì, sta tutta la giornata con me, stai, capito? Sì. Però, come una principessa. Sì, per carità, però non ti vorrei illudere in questo rapporto che hai instaurato con le prostitute cubane in particolare. Non sono prostitute, sono ragazzi che, beh, a parte che hanno una sessualità diversa da noi. Sì, ma questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo, sì. Mario. Però è evidente che passano la giornata con te. Che sei, quanti anni hai, scusa, Mario? Io ce l'ho 48. 48, beh, sei giovane in realtà. A 48 anni vai, passi una giornata con una prostituta a Cuba. Lei chiaramente ti dice: no, beh, è una ragazza a Cuba. Beh, è una ragazza. Beh, io non lo dico in senso negativo. È diverso. La prostituta è quella che tu te la trombi, gli dai i soldi e te ne vai. Cioè, beh, è normale che lo fanno per i soldi. Sì, però stanno una giornata con atmosfera. Ma che atmosfera? Stanno una giornata con te, amico mio, gli paghi tutto, compri degli oggetti, dei vestiti. Sì. E appunto, pranzo. Mi ero pure innamorato. Guarda, la tua storia è fantastica. Resta con noi un attimo, perché abbiamo un personaggio che ci sta aspettando al telefono, se ancora è pronto, perché ci farà delle previsioni su cosa succederà nei prossimi mesi. È un amico di Parenzo, si chiama Divino Otelma. A tra poco. Ci sono gli arabi che appena arrivano qua in Italia vanno subito a puttane. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Huawei Mate S. La Zanzara. Per una grande carrellata di previsioni sui prossimi mesi e forse anche sul prossimo anno. Beh, un personaggio a te carissimo, però mi devi promettere una cosa: devi stare zitto, perché le domande al divino le faccio io. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Mai al mondo verrà la fine. Divino! Vi salutiamo e benediciamo da Portofino, amatissimi figli, come sempre al lavoro e chini sui gravi e complessi problemi delle cumene. Non c'è dubbio. Lei quante ore al giorno lavora? Non per farmi gli affari suoi, Divino. Noi lavoriamo Noi, sì. moltissimo, dall'alba al tramonto e anche più. Dobbiamo sì. al massimo 2-3 ore. 2-3 ore al massimo? 2-3 ore al massimo? Divino? Sì, normalmente dormiamo 2-3 ore, certo. E come fa, come fa a reggersi in piedi, Divino? Scusi per la Con domanda. Con i nostri esercizi spirituali, che sono del resto gli stessi che ci hanno permesso, per esempio, a Caio Paloma di poter non mangiare senza soffrire la fame, mentre gli altri non mangiavano e soffrivano, noi non mangiavamo. Dimagrivamo, ma senza soffrire. Cioè, mi scusi, Divino, a Caio Paloma, cioè in che località si trova Caio Paloma? È una delle isole usate per il programma di Isola del Famoso. Ah, già, è vero, e sì. Lì naturalmente. Vabbè, lì non mangiavi perché era previsto nel programma, però, Divino. È quello che abbiamo detto, cioè mentre in assenza di cibo, perché c'erano 50 grammi di riso sì. e poco più a persona, qualcosa poi si poteva pescare, ma era improbabile riuscire a farlo. Succedeva quindi che molti soffrivano. Invece lei non soffriva. Noi no, perché con esercizi particolari abbiamo allontanato lo stimolo della fame. Ma lei anche pensa di poter sopravvivere fino a 120 anni, come voleva fare Berlusconi, o anche più? Cioè, il divino in realtà può sopravvivere per l'eternità o no? Se noi ritenessimo utile ed opportuno, sì? nell'interesse del genere umano, vivere sì? fino a quell'età, potremmo certamente farlo. Solo che ci chiediamo se il gioco vale la candela, considerata la situazione di crescente sì, certo. peggioramento, non solo a livello italico, che sarebbe poca cosa, ma a livello mondiale. Cioè, lei che decide quindi, quando morire o no, questa è la sostanza. Ma naturalmente. Cioè, non è la natura. Non siamo gli unici ad averlo fatto, anche Yogananda, tanto per fare un nome noto a molti dei nostri ascoltatori, ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè ha deciso il momento dell'ascesa della dipartita, non c'è dubbio. Allora io vorrei partire, caro Parenzo, da una domanda molto semplice. Non era finita qui, c'è la saga. No, aspetta, stai fermo. Allora, stai fermo. Allora, ci saranno cosa che riguarda molti di noi, molti italiani. Ci saranno, secondo il divino, prossimamente, nelle prossime settimane, attacchi ISIS in Italia, attacchi dello Stato Islamico in Italia, secondo lei, divino? Risposte molto brevi, sennò poi ci dilunghiamo troppo. Certo, noi avevamo già affrontato lateralmente il problema rispondendo ad alcuni quesiti di Radio Cusano Campus, gli amici, la non c'è radio dubbio. Dell'Università Nicolò Cusano, e avevamo annunciato che Roma, ad esempio, sarebbe stata a breve. Nel mirino dell'ISIS. Ma nel mirino, sì, lo dicono loro. Attualmente è accaduto perché, come tutti sanno, Roma in effetti è nel mirino. Ma ho capito, ma l'hanno detto loro, però. L'hanno detto loro. L'hanno detto loro dopo. Poi la controprova è che il governo italiano dice il contrario. Quindi è evidente che se Alfano dice che la cosa non può essere o non è, vuol dire che invece può essere ed è, perché non dimentichiamo che questo. Insomma, è ci saranno governo, attacchi o no? Esempio, ci saranno attacchi? Divino, ci saranno attacchi? Noi vogliamo sapere questo, al di là delle sue ci saranno attacchi ISIS a Roma, sì o no? Noi riteniamo che in realtà ci siano già stati delle iniziative di questo genere a Roma, e anche a Milano, e semplicemente sono state all'ultimo minuto circoscritte e rimosse. Beh, ma l'ha detto Alfano questo qua. Si è tentato di coprirle, ma il gioco non potrà durare a lungo. Allora, il Giubileo è in pericolo, divino? Altra domanda. Ma Giubileo senza alcun dubbio, no. È in pericolo. Non c'è dubbio che il Giubileo è a rischio. Non esiste alcuna possibilità per l'attuale forza di polizia, che pure è notevole, di fare cosa? Di alto elogio, però non è colpa sua, il governo non dà i mezzi alle forze dell'ordine per difendere i cittadini. Vabbè, è a rischio, Vengono sprecati nei giri in elicottero del Duce Puffo, anziché dare soldi come sarebbe alla giusto polizia. Ai carabinieri, alla polizia, non c'è dubbio. All'esercito. Per cui il Giubileo ma è in pericolo. Quelli che contano non sono premiati e vengono invece sprecati. Vabbè, però non ci dilunghiamo in analisi politiche, divino. Io vorrei però fare un'altra domanda. Renzi resterà fino al 2018 quello che lei chiama il Duce Puffo, sì o no? No, noi non crediamo che possa rimanere fino al 2018. Non resterà. Benissimo. Fino alla scadenza naturale della del legislatura, mandato, altre parole, perché sennò poi. E il Papa, si dimetterà. Potrebbero essere equivocate. Il Papa si dimetterà. Ora, il problema di Renzi è che lui non sa che pesci pigliare, si è intrappolato con le sue stesse mani, ha creato una legge elettorale forgiata secondo la sua povera mente su misura, convinto di arrivare al 40% quando sarà già grasso che cola, si arriverà al 30%. Va bene, per cui allora però divino un'altra cosa, Sallusti si candiderà a sindaco di Milano, tanto per restare sull'attualità? Beh, questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere. Beh, allora, se non risponde su questo non l'abbiamo neanche esaminata, non è non è stata esaminata, no, per carità, in assenza di esistenza. E la Meloni si candiderà a sindaco di Roma? Bisogna che la Meloni ci dica se vuole candidare. Beh, quello non c'è dubbio, però. A quel punto noi diremo alla Meloni, come già abbiamo fatto in una precedente occasione, a un giorno da pecora, quando si era presentata e c'era stato chiesto. Beh, ma se secondo lei ma il vaticinio? Abbiamo detto che non l'avrebbe raggiunto. E il vaticinio? E il vaticinio qual è? Sulla Meloni? Sulla Meloni si presenta o no a sindaco di Roma? Come no, sindaco? Ripetiamo. Il vaticinio non può essere se Meloni si presenta. Questa è una violazione plateale della prima norma deontologica dell'arte oracolare. Cioè dell'arte non oracolare. Si può fare un vaticinio che dipende dalla volontà del soggetto. E Renzi, Renzi perderà le comunali? Diverso sarebbe se invece la Meloni dicesse mi presento, a quel punto valutando naturalmente uno decide se vince o perde. Potremmo dare una risposta, certo. Renzi perderà le comunali, divino? Non abbiamo capito. Renzi perderà le elezioni comunali? Sì. A nostro avviso questa è più facile come risposta, perché si può collocare in un trend che peraltro noi avevamo già inquadrato molto bene, sì, e che sì. Aveva avuto ampi riscontri, per cui quando si farà il controllo generalista, vedrà che la sconfitta del Duce Puff sarà ampiamente registrabile anche alle comunità. Benissimo. Parenzo, vuoi introdurre tu, vuoi combattere un po'? No, guarda, io voglio solo dirti una cosa, per farti vedere che ho studiato in questi, perché ho avuto un po' di diffidenza nei confronti, del divino tema, però ho studiato. Fammi una domanda, chiedimi se secondo me a Parigi stanno vivendo ore di terrore, chiedimelo. No, a te, No, a me, perché ho imparato come funziona, chiedimelo. Parenzo, a Parigi stanno vivendo ore di terrore? Guardate, a nostro avviso, noi della Cancelleria Parenzo riteniamo che dalla settimana scorsa, in particolare da venerdì scorso alle 22:30, sì, la Francia, in particolare Parigi, stia vivendo dei momenti di terrore. Crediamo che questo continuerà anche nei prossimi giorni. Vabbè, questa è una presa per il culo del divino, però. Penoso. Come semplicemente penoso, un essere senz'altene parte che trascina la sua inutile vita sulle strade nel mondo, nella assoluta indifferenza, direi, di tutti, non dei più, perché dire più vorrebbe dire che qualcuno gli dà retta. Sì. Si tratta di uno scarabeo stercorario, sì, vagante per mare bolge, sì, alla ricerca affannosa di cibo compatibile. Com'è? Scarabeo, scusi, divino, scarabeo? Scarabeo stercorario, sì, vagante per la bolge, lui neanche saprà cos'è, ma comunque i nostri ascoltatori lo sanno, sì, alla ricerca affannosa di cibo compatibile e gusto, e tutti sanno qual era il cibo a male bolge. Non possiamo equipararlo all'uomo di Neanderthal, semplicemente perché, questo lo diciamo nella nostra veste di dottori in antropologia culturale, sì, ed etnologia, che è uno dei nostri dottorati. Perché? Semplicemente perché l'uomo di Neanderthal, che una volta si pensava essere, sì, molto indietro, allora, quanto a cultura, intelligenza, eccetera, eccetera, rispetto al sapiens, ora si sa che invece è equiparabile al sapiens. Quindi per cui non può essere Parenzo, non può essere, e neanche possiamo equipararlo a un bonobo. I bonobi. Vabbè, però aspetti un attimo, Parenzo, reagisci un attimo a queste cose che ti sta dicendo. Sono scimpanzé, ma di molto molto elevato livello intellettivo. Quindi seconda, anche il bonobo noi possiamo equipararlo. Sì. Seconda questione. Aspetta, fermo lì. Rendolo tra paese, sì, un analfabeta cronico e demenziale. Sì. La rappresentazione del nulla. Sì. Un essere che grida nel deserto, visto che nessuno lo ascolta, lo ascolterà. Vabbè, divino, le arrivederci. Le vicende del suo passato sono miserevoli, inconsistenti, sì, appartengono coteste vicende alla categoria del nulla impersonale. Ti faccio un altro vaticinio. Basta, divino, arrivederci, grazie. Allora, Mario da Cremona. Vai, Mario. Dimmi. Allora, io eravamo rimasti a Cuba, giusto? Sì, sono andato una trentina di volte, sono stato pure in Thailandia, ormai ho preso l'abitudine, quando c'è anche una brava ragazza per forza la devo pagare, cioè non lo so perché, mai psicologicamente... Cioè, ma anche in Italia la paghi? Sì, qualche volta, no, la pago, gli do 30-40 euro, mi dice che cazzo sono, una puttana, cioè ormai la devo pagare. Cioè devi pagare per forza tutto? Cioè, proprio, cioè, godo proprio in questa maniera, cioè, non è più forte di me. Beh, però, questa però, scusa, sei piombato in un'altra malattia, però, se prima eri depresso perché ti aveva lasciato tua moglie, adesso non puoi non pagare. Ho preso questa abitudine, cioè io sono convinto, cioè devo dare un po' qualcosa, cioè non lo so. Cioè da una parte le puttane ti hanno salvato la vita, stai dicendo, sì, no? Sì, perché ero caduto in depressione, cioè, però adesso sei nel gorgo del pagamento di una donna. Sì, però non vado in Italia, io vado soltanto quando vado a Cuba. In Italia non mi piace la puttana, quelle che sono qua in Italia. Perché non ti piacciono? 10 minuti vogliono 50 euro, cioè non mi piace, invece là c'è un'atmosfera, cioè ti fanno sembrare che sei riccio e ghiera, ti danno un po' di affetto, un po' di calore. Ma amico mio, però, perché evidentemente uno porta talmente tanti soldi che queste qua restano un'intera giornata, qui effettivamente produzione è molto più fordista. Allora, se tu vai a Lavana e cerchi le modelle ti costa anche $150 a scopata, ma io vado nel sud, Santiago, Camagüey, là con tutti i giorni con $30 me la porto dietro, mangia, beve, tromba e si diverte, capito? Le grandi avventure di Mario da Cremona continueranno, caro Parenzo, la settimana prossima. Molto bene. Continueranno, e come se continueranno. Tu levati da quel cazzo di antro. Ma possibile mai che non riesci a capire che non puoi fare i collegamenti da un posto in cui l'acustica fa schifo? Un vaticinio. Qual è il vaticinio finale? Qual è il vaticinio? Lei pensa, Parenzo, che il futuro in Europa sarà costernato, ci sarà il terrorismo in Europa? Noi pensiamo che alla luce di quanto avvenuto a Parigi l'Europa passerà un periodo molto duro. Ecco. A lunedì, ciao. Ruciani, sono l'animalista razzista di Udine. Alla tua morte non ce ne frega un cazzo della morte di Cruciani, non ce ne frega un cazzo, un beato cazzo ce ne frega. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.